24, i gialli della storia. Tutti li leggevamo allora, non era una cosa, era una cosa normale leggere il fotoromanzo, prendere il Grand Hotel era una cosa, no, non si vedeva l'ora che uscisse. Forse per evadere dal mondo che eravamo, ecco, vedere in realtà queste cose belle che c'erano nel fotoromanzo, ecco. Fotoromanzo, un fenomeno che ha cambiato i sogni, regalato speranze e costruito l'immaginario collettivo delle donne del difficile dopoguerra italiano. Questo singolare genere letterario nasce nel 1946 dall'intuizione dei fratelli del Duca. È stato poi esportato in tutto il mondo fino a essere trasformato dalla televisione con le soap opera e le miniserie. Di questo parliamo oggi a Mix 24, cominciando dalle origini, quando il 29 giugno del 1946 esce in edicola il primo numero di Grand Hotel. Viene quasi ignorato, ma è una vera rivoluzione. 100.000 copie in soli 2 giorni e 14 ristampe in una settimana. È ancora solo un fumetto, ma grazie all'abilità di Walter Molino, disegnatore d'eccellenza, i protagonisti sembrano in carne e ossa e questo ne decreta il successo. Un successo fatto di storie, avventura, storie d'amore. Un pubblico di milioni di lettrici, perché è a loro che è indirizzato quel giornale. Ascoltiamo l'opinione della scrittrice Roberta Tatafiore di Ermanno Detti, storico dell'illustrazione. La grande intuizione è quella di rendersi conto innanzitutto che le donne sono un pubblico, cioè quindi un pubblico che spende, non moltissimo perché allora l'occupazione femminile era bassissima, eccetera, però che è disposta a spendere per avere i suoi, come dire, le sue rappresentazioni dei sentimenti, cosa di cui le donne non è che ne hanno bisogno più degli uomini, gli piace di più, semplicemente. Del resto, se dobbiamo essere proprio sinceri, il sentimento è alla base di tutte le grandi narrazioni, giusto appunto, popolari. È una grande intuizione, perché la donna in quel momento stava uscendo, era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, aveva avuto un ruolo nella Resistenza, aveva ottenuto il diritto di voto, quindi c'era anche un processo di emancipazione femminile. E loro intuiscono che il pubblico femminile possa essere un buon pubblico. Se riusciamo, pensano, a destinare a questo pubblico delle storie leggere e ben costruite. E dentro quelle storie c'è un desiderio di evasione e di normalità. Una strada verso l'emancipazione che ha debolmente cominciato il suo percorso e che si scontra con i rigori della morale e delle abitudini. Insomma, un mondo fatto di sogni, spesso irrealizzabili, che vivono attraverso le pagine di un fumetto. Ma è anche il periodo del neorealismo, di Roma città aperta, una società e un mondo molto diverso da quello che viene mostrato dalle pagine di Grand Hotel. Ora, tutte queste cose nella realtà l'Italia non c'erano, non esistevano, proprio, anzi quei citi proprio che leggevano il fotoromanzo erano soltanto nella loro immaginazione, nel loro sogno. Bisogna tenere presente che il secondo dopoguerra è un'epoca però di grandi speranze, di grandi sogni, perché si sta ricostruendo e si spera di costruire un'Italia nuova, un'Italia completamente diversa, e questi sogni si innestavano bene, su questa evasione si innestava bene sui sogni delle italiane. E questa tendenza al sogno, all'illusione, scatena critiche e fa scandalo. La lettura dei fotoromanzi viene stigmatizzata sia dai grandi partiti di massa che dalla religione. Ne parlano lo storico Anna Bravo e il sociologo Ferro Rotti. Il fotoromanzo si caratterizza perché ha avuto cattivissima stampa. Dal primo numero, quel numero di cui ricordavo il grandissimo successo, dal primo numero è nato putiferio di critiche, di inviti alla censura, di stigmatizzazioni di tutti i tipi. L'interessante è da tutte le parti, politiche e culturali, PC, psi, cattolici, destre, tutti ce l'avevano col fotoromanzo. Il motivo per cui penso che sia nata questa specie di rivolta anti-fotoromanzo è complesso, perché è legato alla tradizione italiana in cui l'intellettualità, in particolare all'epoca, aveva un enorme disprezzo, un'enorme diffidenza verso i prodotti della cultura di massa, prodotti commerciali, prodotti di consumo, che erano visti come veramente una degradazione della cultura. Ma chi erano? Quali erano queste forze? Erano le forze semplicemente di una sorta di reazione costante contro il rinnovamento? Noi oggi lo possiamo dire. L'Italia certamente in quegli anni, parliamo dell'immediato dopoguerra, avvertiva tutte le incertezze e gli smarrimenti di una grande transizione. La transizione era da una società contadina, artigianale, una società tutto sommato statica, verso una società industriale. Di più, non dimentichiamo che l'Italia ha compiuto la sua rivoluzione industriale in poco più di una generazione, 20-25 anni, laddove in altri paesi, per esempio in Inghilterra, ha richiesto poco meno di due secoli. E gli storici, ma gli analisti sociali, i sociologi e direi gli psicologi ci insegnano che un trapasso culturale così rapido non poteva che produrre qualche forma di blanda schizofrenia. Però forze come alcuni gruppi particolarmente retrivi della Chiesa Cattolica, forze politiche come il grande movimento di massa, il Partito Comunista, evidentemente avevano un interesse consolidato nel bloccare la situazione, o meglio, nell'accettare solo i movimenti innovativi che potevano dirigere. Il passaggio dai disegni alle fotografie è quasi immediato, come è immediata la nascita della concorrenza. Dopo poco più di un anno, nel 1947, escono in edicola due nuove riviste, Sogno e Bolero Film. Viene coniata la parola fotoromanzo. Partecipano a questo nuovo fenomeno di massa personaggi che sono destinati ad avere un grande futuro nel cinema, come Damiano Damiani e il primo regista di Bolero. Qui c'è un delitto, c'è un bacio, eccetera, così. Si è stata portata giù dallo schermo e messa in un pezzo di carta. E invece non era stata portata giù dallo schermo, era stata semplicemente messa nel pezzo di carta. Quindi il lavoro è stato, direi, pesante. Dovevamo essere attenti, fare bene i campi lunghi, i primi piani, tutte queste cose che a poco poi furono portati in complesso nelle opere che si facevano in televisione. Ecco, queste sono cose che prevedono e anticipano il racconto che noi abbiamo visto poi in seguito nelle televisioni. Dalla fine del 48 ogni settimana vengono vendute più di 2 milioni di copie di fotoromanzi. È un fenomeno che non è più possibile sottovalutare. E poi questo universo femminile che scopre il diritto ad amare e a sognare è pericoloso. Ai giornali le donne scrivono, raccontano le proprie fantasie e i desideri più nascosti. Quelle storie sopra le righe fanno immaginare realtà impossibili e rischiano di cambiare rassicuranti equilibri sociali. Ancora la scrittrice Roberta Tatafiore. La testa che fa venire un fotoromanzo, così come un Harmony di adesso, una soppopera, è lo sceno dei sentimenti, cioè gli sentimenti che nella vita quotidiana sono fuori scena, in questo senso dico sceno, cioè non possono essere detti con quella, come dire, con quella immediatezza, con quella desiderio di risolverli subito. Tutti ci innamoriamo nella vita reale, no? Però sappiamo benissimo che innamorarsi vuol dire fare anche i conti col principio di realtà, va bene? Anche una grande passione fa i conti con questo principio. Nel fotoromanzo tutto funziona alla perfezione, non hai da aspettare neanche un minuto, fuggi dal principio di realtà e ti immetti in questo mondo che io lo chiamerei dei sogni veri, altrimenti non si capisce perché c'è questo grande desiderio da parte del pubblico di consumare questi prodotti. E poi, anche se non c'è mai niente di esplicito, il fotoromanzo è pieno di allusioni sessuali o comunque di comportamenti al limite della moralità corrente. È inevitabile che anche la Chiesa prenda posizione e inviti le donne ad abbandonare quella lettura. Chi legge i fotoromanzi commette peccato e deve confessarsi, ma questa presa di posizione fa del fotoromanzo un oggetto proibito da continuare a leggere anche se di nascosto, per continuare a coltivare quel sogno del cinema buon mercato da tenere in borsetta. Intanto, dopo il 50, il fotoromanzo introduce nelle sue storie nuove figure femminili che raccontano un'emancipazione che ancora non esiste nella vita di tutti i giorni. Le protagoniste sono modelle, avvocatesse, industriali, ancora Anna Bravo. Uno degli aspetti interessanti legati alla grande diffusione del fotoromanzo è il fatto che ha una funzione per lo più misconosciuta di alfabetizzazione. Pensiamo a un'Italia povera, a un'Italia dove il tasso di analfabetismo era molto alto, ancora in particolare tra le donne, a un'Italia fatta ancora di paesi in cui non c'era, figuriamoci, il teatro certamente no, non c'era nemmeno il cinema, non c'era nemmeno l'edicola, cioè non c'era nemmeno una libreria, una biblioteca, ma c'era l'edicola. E in edicola arrivano un Bolero, Sogno, Grand Hotel, e sono un po' quello che porta una ventata di modernità. E anche i divi della televisione vengono catturati da questa nuova macchina che continua a vivere, a prosperare senza nessun accenno di crisi. E sulle pagine dei fotoromanzi è facile trovare Nilla Pizzi, Vittorio Gassman, Enzo Tortora, Mike Bongiorno. Che tipo di popolarità le ha dato il fotoromanzo? Beh, innanzitutto una popolarità direi pari a quella che io oggi in televisione, perché quelli che mi seguono in televisione sono quelli che poi in gran parte comprano i fotoromanzi, però si è verificato un fenomeno molto interessante. I fotoromanzi vengono anche venduti all'estero e vengono tradotti in varie lingue e ci sono dei paesi, soprattutto nell'America del Sud, dove io sono molto popolare, non perché sono Mike Bongiorno della televisione italiana, anzi quella gente lì non sa assolutamente che io sono un divo cosiddetto della televisione, ma invece sono diventato popolarissimo proprio come interprete dei fotoromanzi. Romanzi, tant'è vero che ricevo delle lettere in lingue sconosciute da gente che mi scrive, mi chiede la fotografia e che mi conosce esclusivamente per via dei fotoromanzi. E il fotoromanzo diventa anche compagno di viaggio nei lunghi percorsi delle migrazioni tra sud e nord. Questo tema dell'emigrazione è importante perché in fondo, avendo una diffusione nazionale questi giornali, leggerli a Torino o a Milano era in fondo avere un modo per comunicare con coetanee a partire dallo stesso testo. Questa era sicuramente una delle ragioni. Sei solo, sei isolato, non sai cosa dire, ma puoi dire guarda, in quel numero lì di Grand Hotel è successo questo, un linguaggio comune. Come molti uomini comunicano attraverso il calcio. Le donne potevano comunicare attraverso il racconto d'amore. Lo stesso testo, due te lo scambi, perché poi giravano questi fotoromanzi, soprattutto nel dopoguerra immediato, quando non c'erano proprio soldi, allora c'era, magari in un caseggiato lo comprava una volta, e poi questo fotoromanzo andava su e giù per le scale e era letto da tutti. La volta dopo lo comprava un'altra famiglia. Quindi aveva anche questo aspetto di interessante, di giornale che teneva insieme in qualche modo. Un filo di comunicazione che attraverso le storie d'amore, quasi sempre a lieto fine, aiutava ad affrontare le difficoltà economiche e sociali. Senta, che mestiere fa, signor Girolamo? Il pastore. Lei ha moglie? Sì. E sua moglie lavora con lei? Sì, sì. Senta, se a sua moglie capitasse un lavoro fuori di qui, la manderebbe? Se è sul locale la manderebbe, sì, ma fuori dal locale non la mando. Cioè, in un'altra zona no? No, no. E perché? Senza di me quello non sta. Avete capito? E non è un caso isolato. Sentite quest'altro. Senta, lei cosa ne pensa delle donne che vanno a lavorare fuori? Voi non volete? No. E perché? Perché devono andare insieme con la madre o che sia col padre o il fratello. Un'altra donna è uguale a quella donna. Ho capito. Ma perché non volete? Perché siamo gelosi di andare sola. Va bene, grazie. Prego. Signor Carella, lei ha una figlia? Sì. E quanti anni ha? 15 anni. Che cosa fa adesso? Adesso studia. Senta, lei la farà lavorare? Finché ho la possibilità di non farla lavorare, cioè finché ho la possibilità di non farle mancare niente, non la farò lavorare. E perché? Perché in genere io sono contrario a che le donne lavorano. Penso che in casa ci sia tanto e tanto da fare. Ancora il sociologo Franco Ferrarotti. Lungi dal dovere pensare alla logica dell'armento a proposito delle povere donnaccole istupidite dai fotoromanzi, dobbiamo riconoscere che quella fase del fotoromanzo, Grand Hotel e così via, ha voluto dire semplicemente, ha voluto costituire un primo gradino verso la lettura e soprattutto verso il mondo più vasto, l'uscita dal chiuso del mondo domestico. Quel fenomeno che sembrava destinato a morire presto raccoglie successi straordinari nonostante gli anatemi che gli vengono lanciati dalla Chiesa prima, dai partiti politici dopo. E allora la strategia diventa quella di appropriarsi del genere, di raccontare attraverso fotografie e fumetti storie più vicine alla realtà. Sempre storie d'amore, ma ambientate in contesti sociali molto diversi che si scontrano col problema dell'immigrazione e della sicurezza sul lavoro. Una vera e propria campagna elettorale per le elezioni politiche del 63, lo racconta lo scrittore Marcello Argilli. A un certo punto il Partito Comunista mi ha chiamato perché aveva deciso di fare un fotoromanzo di propaganda, cosa assolutamente nuova, in quanto mi ricordo nel 52 la discussione che c'è stata fra Togliatti e Rodari sul fumetti, il fumetto in cui era impossibile che il Partito Comunista poteva fare dei fumetti o raccontare addirittura una storia del Partito Comunista a fumetti, che poi dopo Vie Nuove 3-4 anni dopo l'ha fatta naturalmente. E invece anche nel 61 c'è stata l'idea di poter utilizzare lo strumento a larga dimensione del fine romanzo per dare dei programmi elettorali. Queste cose venivano distribuite sia dal partito e perciò raccoglievano soltanto certe persone di un certo ambiente. Poi venivano queste cose distribuite in piazza, dove il sabato, la chiesa, l'incontro delle persone, che venivano date questi libri sui fotoromanzi, che soprattutto alle donne, le quali con questi fotoromanzi erano attratte dal fatto un fotoromanzo gratis, lo leggevano, ecco, entravano dentro in una storia che faceva un discorso politico, ma nel suo tempo aveva una condizione reale che loro vivevano, perché tutti sapevano le condizioni che c'erano nel loro paese su degli emigrati. Anche chi non aveva i suoi emigrati, ma c'erano dei parenti che sono emigrati, avevano queste storie e venivano illuminati, venivano, come dire, una simpatia, acquisiva una simpatia. L'iniziativa del PC è decisamente un insuccesso. Il sogno vince sulla realtà. Il sogno rappresentava un bisogno che non oscurava la vita reale, ma che permetteva un'evasione. Se le dicessi che i fotoromanzi le impediscono di leggere dei buoni libri? Beh, io non trovo niente di eccezionale a leggere questi fotoromanzi, anzi sono molto belli, poi non c'è niente di piccante, insomma, di che non si possa leggere, ecco. Lei li trova morali? Sì, io sì. Se le regalassero tanti bei libri? Sì, io leggerei i libri, però i fotoromanzi non li lascerei, ecco, leggerei anche i fotoromanzi perché io trovo, insomma, qualcosa di bello, forse più che il libro. Quanti ne compra alla settimana? 5 o 6. E li legge tutti e 5 o 6? Tutti. E libri, ne legge? Beh, non posso perché sto studiando, è poco tempo che mi rimane. E libri, ne legge? Non mi riesce mai di terminarli. Perché? Alla fine, perché è per il tempo. Lei preferisce un buon romanzo o un fotoromanzo? Fotoromanzo. Perché? Un romanzo è un po' troppo lungo, ci vuole troppo tempo. Non la meraviglia che nei fotoromanzi succedono sempre cose che non succedono nella vita reale? Io credo che succedano in vita reale. Milioni di donne continuano a leggere quelle pagine e non si sono certo rimbambite, come sostenevano molti intellettuali, invece hanno continuato a cercare di migliorare la loro condizione e ci sono riuscite. Poi agli inizi degli anni 70 c'è la necessità di divulgare informazioni fondamentali per la crescita della condizione femminile. Il movimento femminista decide di servirsi del fotoromanzo e le lotte per l'aborto, il divorzio e la contraccessione diventano lotte importantissime. Lo raccontano la storica Anna Bravo e Paola Pitagora. Poi arriva l'AIED, che è un'associazione storica, la prima associazione italiana per controllo demografico, che nel 75 fa, secondo me, dei bellissimi fotoromanzi brevi, racconti flash, in cui si capisce come si è infelici, cioè l'amore non è felice perché c'è questa angoscia continua che lei rimanga incinta. C'è la bellissima Paola Pitagora, ed è lei che prima non riusciva a fare l'amore perché era troppo preoccupata, poi va dal medico, prende la pillola e allora sono tutte e due felici. Questi sono molto belli e sono veramente fotoromanzi utili, perché storie brevi, nomi molto noti, perché la Pitagora aveva fatto La Lucia dei promessi sposi, poi faceva fotoromanzi. Linguaggio semplice, addirittura con echi del linguaggio fotoromanzesco vero e proprio, tipo Il piacere supremo. La scelta del fotoromanzo mi sembrò curiosa, mi divertiva, però intuivo che era un linguaggio, che era un messaggio che si inseriva all'interno di un linguaggio molto popolare. E forse questo contribuì a far arrabbiare molto le persone. L'equivalente di oggi sarebbe la televisione. È immaginabile un lungo spot televisivo sull'uso della pillola anticoncezionale, sceneggiato e recitato con la tecnica della soap. I fotoromanzi attraversano così gli anni 70 anche quando la realtà si scontrava con il terrorismo e la lotta di classe, e nascono nuovi divi come Franco Gasparri, un divo che non ha mai avvicinato né il cinema né la televisione. Il tragico incidente che lo costringerà sulla sedia a rotelle segna la fine di una stagione del fotoromanzo, un genere che però si è trasferito in televisione nelle soap opera. Un nuovo mezzo per continuare a coltivare i sogni e a sovrapporsi alla realtà, anche solo per il tempo di una puntata, come accade ogni giorno in Un posto al sole. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.